Con il coronavirus, riflettori spenti su tante crisi, ma il mondo continua a girare, non sempre per il verso giusto. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. War has been dragging on for 7 months now on the outskirts of Tripoli. As well as hitting military targets, they've been accused of killing hundreds, possibly thousands, of Yemeni civilians. A new anti-terrorist mission as part of the French military's Operation Barkhane in Gao in northern Mali. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, vi porgo i saluti da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano, Antonio Tali, Ilaria Sesana, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo. In assistenza e regia quest'oggi ci sono Claudia Schiattone e Carmelo Lauricella. 349-238-6666 per sms e whatsapp per domande e commenti. Oggi cercheremo di riaccendere i riflettori su tre quadranti, tre grosse crisi che sono un po' cadute nell'oblio, quantomeno mediatico, ma forse anche dalla grande politica internazionale, complice l'emergenza del coronavirus. Tre quadranti, dicevo, uno molto vicino a noi, la Libia, poi viaggeremo verso sud, andremo in Sahel e poi in Yemen, una delle guerre più cruenti e dalle risvolti umanitari più tragici che la storia recente ci abbia mai consegnato. I commenti li leggo anche su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, su Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Detto ciò, come ogni giorno, anche quest'oggi, Carmelo, la prima cosa da fare è andare a sfogliare i nostri dossier internazionali. È gioco forza che qualsiasi notizia che arrivi da ogni quadrante del mondo abbia in qualche modo o sullo sfondo o in primo piano l'emergenza del coronavirus, a volte con risvolti assolutamente inaspettati. In Colombia, proprio ieri vi davamo notizia di quella rivolta nelle carceri, che è uno degli scenari forse più spaventosi che si possono immaginare per una categoria di cittadini nel mondo, quella dei detenuti, che è sicuramente tra le più vulnerabili. Detto ciò, quello che è accaduto è che, complice la stretta del governo colombiano per evitare gli spostamenti e dare corpo alle misure restrittive e sanitarie, ne hanno approfittato alcune gang criminali dotate di veri e propri squadroni della morte, che stanno approfittando di questa esecuzione delle misure per un altro tipo di esecuzione, perdonatemi il lapsus, cioè stanno andando a colpire gli attivisti per i diritti umani e gli attivisti per l'ambiente. La denuncia è arrivata da alcune ONG locali, è stata rilanciata anche dal quotidiano inglese The Guardian. Negli ultimi 3 giorni sono stati registrati almeno 3 vittime, Marco Viranadeira, Alexis Vergara, Ivo Umberto Bracamonte. I 3 uomini si trovavano in città diverse del paese. E ci dimostrano ancora una volta come in Colombia vi sia una frontline diversa da quella delle FARC, da quella dell'emergenza coronavirus, ma è quella proprio per la lotta per il rispetto dei diritti umani. Dal 2017 i numeri sono eclatanti, sono stati uccisi 271 attivisti. Perché calcoliamo dal 2017? Beh, semplicemente perché è l'anno in cui è stata firmata la pace, lo dobbiamo mettere davvero tra virgolette, tra il governo di Bogotà e le FARC. Afghanistan. Vi avevamo proprio ieri raccontato di quella visita lampo a sorpresa del segretario di Stato statunitense Mike Pompeo a Kabul. Per fare che cosa? Sostanzialmente dare corpo e seguito all'accordo di pace tra Stati Uniti e talebani firmato a Doha, con un ma, anzi parecchi ma e parecchi però. L'Afghanistan a settembre, fine agosto, era andato alle elezioni, 7 mesi dopo si sono avuti i risultati. Ashraf Ghani vince con uno strettissimo margine su Abdullah Abdullah. Ashraf Ghani giura da presidente, Abdullah Abdullah fa la stessa cosa e si autoproclama presidente. Il tutto in un territorio difficile, conteso, il cui 50% è ancora sostanzialmente nelle mani dei talebani stessi. È bene ricordare che la maggior parte delle città sono in mano al governo, ma le forze di sicurezza afghane stentano, e secondo molti analisti stenterebbero in una ipotetica ripresa del conflitto a tenere la rotta. Cosa è accaduto? Allora, che Pompeo è andato a Kabul, ha incontrato sia Ashraf Ghani, quindi il presidente legittimamente eletto, pur, ripeto, con anche pochissimi afghani che sono andati a votare, e ha parlato anche con Abdullah Abdullah. In sostanza ha invocato una unità nazionale. Per corroborare questo discorso ha semplicemente tagliato $1 miliardi di aiuti, minacciando che se non venisse intrapreso il percorso auspicato dall'amministrazione statunitense, gli aiuti afghani statunitensi per l'Afghanistan subiranno un altro miliardo di tagli. Va ricordato che gli Stati Uniti sono una delle più grandi stampelle dal punto di vista finanziario del fragile governo afghano. Ultima particolare, che poi particolare non è, ma lo stop durante il volo di rientro di Mike Pompeo, sapete dove? Proprio a Doha, per parlare, per chiudere anche il cerchio diplomatico, proprio con un portavoce dei talebani, Mullah Baradar Akhund. L'ultima notizia del nostro dossier internazionale in Mozambico, e la notizia per molti suonerà strana, inconsueta. Un gruppo di miliziani jihadisti ha preso il controllo di una città nel nord del paese, Mocimboa de Praia. L'assalto sarebbe avvenuto domenica notte, quando i miliziani sono riusciti a prendere possesso di una stazione di polizia, e da lì sostanzialmente si sono impadroniti dell'intera città. Questo gruppo, che si fa chiamare Al-Shabaab, che in arabo significa i giovani, la gioventù, e che ricorda molto quell'altro gruppo dallo stesso nome, somalo, ma non è chiaro se vi sia un legame, dicevo, questo gruppo si è distinto per altri attacchi durante la storia recente mozambicana, ma mai a una città così importante. Ed è importante sottolineare che questo attacco avviene in una zona dove sono state recentemente scoperti importanti giacimenti petroliferi offshore, e vi sono anche parecchi interessi internazionali, fra cui Exxon Mobil. Questo è il nostro dossier internazionale, le principali notizie che stiamo tenendo d'occhio. Io e tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, lo ricordo, o sono dossier che continuiamo a seguire da settimane, oppure notizie che piano piano prenderanno corpo, diventeranno magari approfondimenti nei prossimi giorni. Detto ciò, adesso chiudiamo questa prima pagina e andiamo in Libia. Mentre lo facciamo vi do anche conto di un po' di messaggi arrivati al 349-238-6666. Federico da Padova: si hanno notizie dalla Russia di Putin, la Cina sospetta siano stati gli americani a difendere il Covid-19 durante un convegno di forze militari a Wuhan, forse in maniera inconsapevole. Un messaggio molto lungo. Arrivano notizie di contagi, della diffusione del Covid-19 dalla Russia, ma come abbiamo messo in luce nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano, vi sono alcuni regimi, vi sono alcuni paesi che sono meno trasparenti di altri anche nella diffusione dei dati. La Russia evidentemente è uno di questi. Detto ciò, su queste che sono tesi che francamente non so bene da dove escano, chiamiamole complottiste, ecco, io le respingo tutte al mittente, abbiate pazienza, ma se potete corroborarle di fonti solide, attendibili, sarà un piacere, sarà interessantissimo discutere le ipotesi sulle cause della diffusione del coronavirus. Ma come già dicevo ieri, non vorrei invece aumentare il fumus su una questione che già di per sé è drammatica, e quindi credo che poche informazioni circostanziate e chiare aiutino noi a lavorare e voi a stare all'ascolto. Un altro messaggio: ma qualcuno si preoccupa se in Libia ci sia o meno il coronavirus? Possibile che non vi sia modo di monitorare i contagi in quel territorio? Fra pochissimo daremo una risposta anche a questo ascoltatore. 349-238-6666 per voi. La prima cosa da fare, come recita giustamente la liturgia giornalistica, se andiamo in Libia, appoggiamo gli scarponi lì, andiamo a Tripoli. Lo facciamo con la voce di Zainab Mohamed, è una giornalista di Tripoli, lavora per il quotidiano online Asaba News. Com'è la situazione nella capitale in questo momento dopo i bombardamenti degli ultimi giorni? Perché ricorderete, anche il segretario generale dell'ONU Guterres ha invocato un cessate il fuoco mondiale per cercare di contrastare il coronavirus. recentemente vi doveva essere un cessato il fuoco anche in Libia, Haftar Sarraj, e il risultato sono stati bombardamenti su Tripoli. Sentite con me la voce di Zainab Mohammed. To save civilians, many pump sounds could be clearly heard here in Tripoli, even by when you're staying at home. Come sentite, Zainab Mohammed racconta la situazione di Tripoli. Il Dipartimento di Stato americano ha confermato l'appoggio al primo ministro al-Sarraj, dice la collega libica, e dopo i bombardamenti del 21 marzo scorso c'è stata la richiesta di immediata cessazione degli attacchi. C'è un richiamo rivolto a entrambe le parti per la sospensione di tutte le operazioni militari e il rifiuto di tutte le interferenze straniere, in modo che entrambe le parti in guerra, Tripoli e Bengasi, possano dedicarsi a lottare contro il coronavirus. Così Zainab Mohammed, che però ricorda che vi sono stati nuovi attacchi rivolti contro diverse zone di Tripoli, specialmente a sud. L'ultimo attacco si è svolto oggi, dice la giornalista, e vi ricordo che l'abbiamo sentita pochissimi minuti fa, nella zona di Inzara. Il Ministero della Salute ha confermato che in quest'ultimo bombardamento aereo sono rimasti feriti gravemente 4 poliziotti. Lo stesso governo di Tripoli chiede alla comunità internazionale di intervenire per fermare questi attacchi che stanno colpendo molte zone di Tripoli, e lo stesso governo di Tripoli chiede di preservare soprattutto i civili. La giornalista riferisce anche riguardo al coronavirus, dice testualmente: sembra di essere caduti dalla padella nella brace, è tutto molto difficile per noi che stiamo qui nella capitale libica. La continuazione di bombardamenti, la fobia di rimanere contagiati dal virus. Nelle nazioni che confinano con la Libia sono già stati confermati molti casi e in Libia sono tutti molto spaventati, nonostante non sia ancora stato individuato alcun contagio. Questa è la testimonianza di Zainab Mohammed, giornalista di Tripoli, lavora per Asaba News, quotidiano online, e che risponde in qualche modo anche a quella che era la sollecitazione di uno di voi ascoltatrici e ascoltatori al 349-238-6666. La situazione sanitaria in Libia, immaginate un paese in guerra, quanto possa essere difficile per i medici non soltanto avere le strumentazioni efficaci, ma banalmente, dico banalmente tra virgolette, un tampone per poter monitorare. A Tripoli non si può uscire e circolare liberamente, visto che Haftar continua, non rispettando la tregua, a bombardare. Ricapitolo brevemente, prima di farvi sentire la voce di un altro ospite, che è Tim Eaton, ricercatore di Chatham House ed esperto di Libia, qual è la situazione sommariamente sul terreno. Da poco meno di un anno le forze del generale ribelle Haftar, che ha il suo governo di base a Tobruk, hanno cinto d'assedio Tripoli e hanno conquistato buona parte del territorio libico. A supportarlo vi è la Russia con molti mercenari, almeno 600, alcuni dicono 1000, della famigerata società Wagner, più altre società. Poi c'è l'Egitto che l'appoggia e gli Emirati Arabi Uniti, i quali svolgono un ruolo non indifferente, sia in termini di finanziamento, quindi soldi per poter finanziare questa campagna, ma anche e soprattutto di supporto aereo, specialmente con droni di fabbricazione cinese che sorvolano anche fino all'aeroporto della capitale e effettuano spesso ricognizioni per poi passare ai successivi bombardamenti. Dall'altra parte abbiamo un fragilissimo governo guidato da al-Sarraj a Tripoli, riconosciuto dall'ONU, riconosciuto dalla comunità internazionale, però rispetto alla quale ormai si è fatto assordante il silenzio stesso della comunità internazionale e soprattutto l'inazione che non sta riuscendo a frenare il generale Haftar. Sullo sfondo, dicevo, del coronavirus, abbiamo chiesto allora a Tim Eaton, ricercatore di Chatham House, che impatto può avere questo virus sugli sforzi di pace in Libia. Ascoltate il ricercatore. It seems there are two possible trajectories in the coming weeks due to the coronavirus in Libya. Ci sono due possibili scenari che potrebbero concretizzarsi in Libia nelle prossime settimane a causa del coronavirus. Il primo è che gli attori internazionali in questo momento sono concentrati sui loro problemi interni e prestano meno attenzione a quello che sta succedendo in Libia. E certamente mettono in campo meno sforzi per vincolare le parti che si combattono sul terreno. Questo potrebbe significare che i soggetti impegnati sul campo, che siano alleati di Tripoli o di Bengasi, cercheranno di spingere per raggiungere i propri obiettivi. e quindi potremo vedere un proseguimento del conflitto. L'altro scenario è un'opportunità. Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per una tregua a livello globale e ci sono stati sforzi per ottenerla in Libia. Mentre la tregua in Libia viene violata dal generale Haftar, una nuova tregua potrebbe essere la premessa per ulteriori discussioni e per allentare le tensioni nel paese. Tuttavia, su questo punto bisogna dire che Haftar è stato molto riluttante ad accettare una vera tregua. È difficile vedere cosa sia cambiato in questo periodo. La voce e l'analisi di Tim Eaton, analista esperto di Libia di Chatham House. In questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano riaccendiamo i riflettori su un conflitto che non si è affatto sopito, complice forse l'ipertrofia informativa che c'è da parte di tutti i media internazionali. E attenzione, sul coronavirus stiamo tralasciando che il mondo continua a girare e ai noi, come dicevo a inizio puntata, non sempre per il verso giusto. Complice il coronavirus, non c'è nulla da fare, la tregua tra Haftar e al-Sarraj non si riesce a concretizzare, tra quelle due anime libiche che faticano a trovare un accordo. A riprova di questo, la redazione mi segnala una breaking news. Secondo vari tweet inviati da qualche minuto da alcuni giornalisti libici con cui siamo in contatto, vi sono nuovi bombardamenti su Ain Zara, che è la zona sud di Tripoli, che è una delle zone dalla quale stanno premendo le forze del generale Haftar. Torno ai vostri messaggi, ai vostri punti di vista che sono fondamentali per la costruzione del racconto di Nessun Luogo Lontano e del dibattito. Onestamente, scrive un ascoltatore, mi sfugge perché siamo così ossessionati dal coronavirus portato dai migranti quando circola ampiamente nelle nostre strade. Possibile che la retorica xenofoba, si chiede l'ascoltatore, ci abbia resi ciechi verso la realtà dei fatti? Così un ascoltatore, al quale però mi sento di rispondere che credo, mi sembra di poter dire che quella retorica francamente non sia così accesa in questo momento, ma forse è solamente una mia impressione. Peraltro, nella puntata tutta dedicata all'emergenza coronavirus in territorio africano, vi davamo conto proprio dello stigmatizzazione che avveniva da parte degli africani verso gli europei accusati di portare appunto il virus. Torniamo però a raccontare il dossier libico, perché è un dossier che è stato colpevolmente ignorato sia dall'Italia sia dall'Unione Europea. Il progressivo ritiro statunitense non ha facilitato le cose. Il governo al-Sarraj, lo ricordavo prima, è riconosciuto dalla comunità internazionale e dall'ONU, ma è supportato soprattutto da Ankara. La Turchia ha infatti mandato in queste settimane parecchi uomini, tra cui almeno 2.000 combattenti siriani ottomani sottratti alla linea del fronte in Siria, ricompensati con uno stipendio che per noi non varrebbe il rischio della morte, ma per loro, che sono passati da $80 a $1.500-$2.000 al mese, si è trattata di un'ottima motivazione. Scacchiere quindi complesso sul quale purtroppo per il momento l'Italia e l'Europa non riesce a far sentire la sua voce. È vero che c'è l'emergenza coronavirus, ma è vero che tutti questi dossier, se lasciati da soli, se lasciati nelle mani sbagliate, nelle mani di altri, potranno far germogliare frutti e fiori che non saranno particolarmente appetibili un domani. Tra queste cose c'è la muscolare arroganza del generale Haftar, che in barba a qualsiasi tipo di embargo non soltanto fa entrare armi dal confine con l'Egitto, ma anche tenta di sfruttare le enormi risorse dei giacimenti petroliferi che per il momento sono praticamente bloccati. Proprio ieri il governo di al-Sarraj e le sue motovedette hanno fermato una petroliera che stava andando a rifornire le truppe di Haftar. Sentite cosa dice Tim Eaton, ricercatore di Chatham House, su questa strana vicenda. Last week the National Oil Corporation reported that a tanker docked in Benghazi had supplied aviation fuel to the east of Libya. La scorsa settimana la National Oil Corporation ha dichiarato che una petroliera ferma nel porto di Benghazi aveva fornito carburante per aeroplani nelle regioni orientali della Libia. Nel suo comunicato, la NOC ha implicitamente dichiarato che questo carburante era destinato a scopi militari. In effetti era carburante per l'aviazione militare di Haftar, che viene usata per effettuare attacchi aerei su Tripoli. Questo è avvenuto in violazione della risoluzione delle Nazioni Unite e sembra che la spedizione fosse collegata agli Emirati Arabi Uniti. In risposta a questo episodio, la petroliera è stata danneggiata dopo essere partita da Benghazi, apparentemente a seguito di un attacco da parte del governo di Tripoli. Si tratta quindi di una situazione molto interessante che sta mettendo alla prova gli accordi internazionali sul petrolio libico. Naturalmente, solo la NOC con sede a Tripoli dovrebbe avere la possibilità di vendere e comprare petrolio sul mercato internazionale. Il fatto che anche l'esercito di Haftar riesca a rifornirsi potrebbe rappresentare l'opportunità per Bengasi di supplire alla carenza di carburante che potrebbe impattare sulla regione e in particolare sulle forze armate. Questo rappresenta un episodio molto interessante, così come è interessante il fatto che l'esercito di Tripoli sembra sia stato in grado di colpire la petroliera seguendo la sua partenza da Bengasi. La NOC che veniva citata nella risposta di Tim Eaton è la società petrolifera nazionale libica. Sia la società libica petrolifera che la Banca Nazionale Libica sostanzialmente sono attori terzi rispetto a questo conflitto e dovrebbero dividere i proventi anche tra le parti belligeranti. Un'ascoltatrice al 349-238-6666 chiede: e quindi le ipotesi di interferenze esterne e di guerra per procura non vengono a ridimensionarsi alla luce di queste notizie, cioè che rimane stallo tra Haftar e Sarraj? In realtà no, nel senso che lo stallo da un lato è militare, perché le due forze si stanno contrapponendo su, attenzione, questa va sempre ricordato, questo aspetto della guerra libica, non dobbiamo pensare l'intero paese in fiamme. Vi sono attacchi sporadici su linee del fronte molto molto ben determinate. Una volta può essere l'aeroporto Mitiga di Tripoli, altre volte può essere per esempio la città di Sirte, oppure la città di Misurata. E sostanzialmente il fronte di pochi chilometri vede combattersi poche centinaia di uomini. Certo, allo stesso tempo va immaginata l'intera linea logistica alle spalle di questi due fronti. Però lo stallo si spiega proprio sul fatto che vi siano obiettivi mirati che soprattutto le forze generali Haftar vogliono raggiungere su tutte, l'aeroporto di Mitiga che è stato chiuso ormai decine e decine di volte dall'inizio dell'offensiva su Tripoli. Cerchiamo di capire allora come è cambiata la situazione sul terreno, sempre le parole di Tim Eaton di Chatham House, perché il generale Haftar sta continuando i suoi attacchi su Tripoli. Ascoltiamo. Se guardiamo a quello che succede sul terreno, penso che quello che dobbiamo osservare è il periodo successivo all'intervento turco. Da quando la Turchia è intervenuta in Libia, siglando il memorandum con il governo di Tripoli e inviando un gran numero di combattenti siriani, la capacità dell'esercito di Tripoli di mantenere la linea del fronte è aumentata in maniera significativa. The material that Turkey has sent has lessened the ability of the LNA to attack it through its air power. Allo stesso modo, il materiale bellico inviato dalla Turchia ha diminuito la capacità dell'esercito di Haftar di condurre attacchi aerei. Sembra che ci troviamo nel mezzo di una transizione verso l'uso di artiglieria a lungo raggio e missili da parte dell'esercito di Haftar per continuare la sua offensiva. Questo è il cambiamento a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, ma non sembra che l'esercito di Haftar abbia la capacità di sfondare. E anche se ci riuscisse, è difficile immaginare in che modo potrebbe controllare la capitale senza un qualche accordo con la Turchia. Al tempo stesso, abbiamo assistito anche a un aumento degli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per supportare Haftar. Personalmente non credo che questo possa portare a una vittoria decisiva. Tuttavia, questo solleva le questioni relative al processo politico, che si è di fatto assopito. Ebbene, il coronavirus potrebbe rivitalizzare quel processo politico. Così la voce di Tim Eaton che ci spiega quella che è la situazione sul terreno e come incredibilmente l'emergenza coronavirus ancora embrionale in Libia potrebbe svolgere quel paradossale ruolo di mediatore, cioè far cessare le armi in omaggio alla comune emergenza. Fra pochissimo darò voce ai vostri messaggi al 349-238-6666. Adesso andiamo a sentire come vanno le borse. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Proviamo a raccontare tre crisi, tre conflitti che sono stati offuscati dall'emergenza coronavirus, ma come dicevamo le cose continuano a accadere nel mondo. Certo, vi sono anche scale di priorità per la grande diplomazia internazionale che, come segnalavano alcuni ascoltatori al 349-238-6666, si disinteressano di dossier per il momento ritenuti minori, con un rischio, e questo è evidente, che tralasciare alcune crisi significa doverle poi gestire fra qualche mese completamente diverse da come le abbiamo lasciate, magari anche peggiorate. Vi do conto di alcuni messaggi, fra l'altro alcuni di voi chiedono lumi su quella che è stata la grande leva di Haftar, ve l'abbiamo raccontata nelle scorse settimane. A un certo punto, visto che non bastavano i droni emiratini, ha deciso di chiudere i pozzi petroliferi, creando sostanzialmente un autoembargo e cercando di fare leva anche su Tripoli. La sua ambizione sarebbe di conquistare la capitale, prendere il controllo della società petrolifera nazionale e della banca centrale libica. Certo non è facile. Lo stesso Tim Eaton, ricercatore di Chatham House, dice praticamente è come se si fosse puntato una pistola alla testa. Il rischio palese, secondo il ricercatore, è che si arriverà con una crisi economica in tutta la Libia per la mancanza di introiti a una divisione de facto del paese che sarà poi cristallizzata nel corso dei mesi e degli anni. Dopo questa prima pagina, tutta dedicata alla Libia, Carmelo Loricella, aiutami perché bisogna andare verso sud, percorrere parecchi chilometri e andare in Sahel. In quella lunghissima fascia che è una congiunzione, una cerniera se volete, tra il Nord Africa e l'Africa subsahariana, un territorio sterminato, molto spesso desertico, un territorio che include vari paesi tra cui il Mali, il Niger, il Burkina Faso. Vi abbiamo spesso raccontato in queste settimane di come si fosse instaurato un simil califfato, vi sono gruppi legati all'ISIS, altri legati ad Al-Qaeda, complice la fragilità dei governi, la quasi assenza di eserciti degni di questo nome, nonostante le grandi operazioni di addestramento da parte dei francesi e non solo. Ci sono praterie sterminate che questi gruppi jihadisti stanno percorrendo, e non soltanto in senso metaforico, per fare cosa? Attaccare villaggi, introdurre un'egemonia territoriale che molto spesso è fatta di attacchi a basi militari per poi requisire armi e munizioni e rendersi sempre più potenti. La storia che vi raccontiamo in realtà risale all'8 marzo. L'8 marzo era il mattino molto presto e siamo nel villaggio di Dinghila Peul, che è stato attaccato da una colonna di uomini armati. Sono arrivati tutti in motocicletta. La maggior parte delle moto portava almeno un paio di uomini armati di Kalashnikov e hanno fatto 43 morti. 43 morti, siamo nel nord del Burkina Faso, nella provincia di Yatenga. Chi è stato? Sentite questa voce che è stata raccolta, una testimonianza raccolta da Amnesty International, che ha appena pubblicato un dossier molto interessante su un incredibile, paradossale effetto collaterale di questa guerra all'estremismo islamico in Burkina. Ascoltiamo. Molto presto, nella mattina dell'8 marzo, abbiamo sentito dei colpi di arma da fuoco provenienti da nord-est. E le persone hanno cominciato ad agitarsi. Poi sono arrivati i Kogleogo e hanno aperto il fuoco su di noi. Ho detto ai miei due figli di guidare la mandria e di scappare. Poi ho visto un Kogleogo proprio davanti alla mandria. Ha parlato a mio figlio urlando, ha puntato l'arma su di lui e ha sparato. Mio figlio si è accasciato a terra e lui ha proseguito. Il drammatico racconto che avete sentito è una testimonianza di prima mano che è stata raccolta dai ricercatori di Amnesty International e ci restituisce in maniera appunto estremamente forte e violenta quella che è stato un effetto collaterale. Per combattere le milizie jihadiste in Burkina Faso si è pensato di ricorrere alle cosiddette milizie di autodifesa. Dopo un corso di un paio di settimane di addestramento, dei civili possono imbracciare le armi e fare dei pattugliamenti per cercare di contrastare appunto le milizie jihadiste. Cerchiamo di capire quanto la cura possa essere peggiore del male che si cerca di curare. Lo facciamo con Francesco Strazzari, insegna relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Professor Strazzari, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno.

delle forze maliane e sfidando proprio il dialogo per fare pressione. In gioco c'è il problema dell'impunità e c'è una comunità internazionale che proprio ad Erci e Tipo, che ricordavate poco fa, ha deciso che il vero nemico dello Stato Islamico nella regione dell'Iktako-Gurma, tra i confini tra Niger, Burkina e Mali, e lì sta concentrando gli sforzi. Lì sono arrivati 500 militari ciadiani, mentre si cerca in qualche modo di imbrigliare le formazioni qaediste in una tela di dialogo che però sfugge di giorno in giorno. La popolazione è tutto sommato favorevole a questo dialogo, anche perché è stanca dei continui massacri, è stanca di vedere le scuole chiuse su tutti i confini, e al tempo stesso però ci sono i salafiti che invece si annunciano, quella forma rigorista di Islam che si annuncia per le prossime elezioni, perché in tutta la regione ci saranno elezioni e giocheranno un ruolo politico, non militare. Dunque una partita a tre: jihadisti, islamisti militanti, ma da un punto di vista politico, e formazioni statali appoggiate dall'Occidente. Grazie mille. Il professor Francesco Strazzari, lo ricordo, è docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Quanto mai complesso il mosaico che ha appena tratteggiato. Grazie mille, professore. Buona giornata e buon lavoro. Noi, velocissimi, andiamo sulle strade italiane e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Tra poco ci sposteremo in Yemen. Abbiamo scelto tre crisi irrisolte, molto spesso anche complice una certa latenza da parte della grande diplomazia internazionale. Un po' di vostri messaggi lo confermano al 349-238-6666. Walter, certo che nei posti che state narrando il problema del Covid-19 sembra essere l'ultimo dei problemi. Qualcun altro invece via WhatsApp, Christian da Milano: ho la sensazione che la Francia porti spesso avanti una politica estera piuttosto spregiudicata, seppur meno eclatante, rispetto a Turchia e Russia. Quali sono i suoi interessi, sempre solo economici o anche acquisire un maggior peso politico nell'Unione Europea? Beh, mi sento di poter rispondere, anche se assolutamente parzialmente e non con la stessa profondità che potrebbe aver avuto il professor Strazzari. Storicamente tutte quelle regioni che abbiamo citato sono regioni francofone, dal Mali al Burkina Faso. La Francia, Parigi, ha un cordone ombelicale ancora piuttosto vitale, diciamo, con queste capitali. Basta girare per Bamako e vedere quanto Bamako parli con Parigi. Ci sono gli interessi economici, ci sono i rapporti con l'Algeria un poco più a nord, ci sono le miniere di uranio ad Arlit in Niger, c'è insomma una presenza storica, economica, culturale e in senso lato egemonica che sicuramente è da tenere presente. Il lato militare, beh, è utile anche ricordare, no, quelle che sono, come dire, le istanze da parte di Parigi sul fantomatico esercito europeo. C'è in Europa chi continua a giocare il ruolo di prima donna. Credo che abbia ragione Cristiano a definire la Francia, la politica estera francese, abbastanza spregiudicata. Detto ciò, Carmelo Lauricella, adesso ci spostiamo in Yemen. È un po' di settimane che non ne parliamo, forse è utile ricapitolare gli ultimi avvenimenti di una crisi umanitaria tra le più gravi degli ultimi decenni. Ascoltate. Il conflitto civile nello Yemen risale al 2015, quando le forze militari Houthi, le cosiddette forze di Ansarullah, si sono mobilitate contro il governo legittimo di Sana'a, costringendo il presidente Abdrabbu Mansur Hadi a rifugiarsi prima nella città di Aden, poi all'estero. La miccia che ha fatto esplodere le vecchie tensioni è stata la proposta di riforma federale del governo, che mirava a raggruppare gli Houthi in un'unica regione, una delle zone più densamente popolate e più povere di materie prime del paese. In più, una riforma del comparto militare aveva epurato l'esercito da tutti gli ufficiali fedeli all'ex presidente Ali Abdallah Saleh e vicino agli Houthi. Nella prima fase del conflitto, i miliziani Houthi sono in vantaggio, riescono infatti ad espandersi al centro del paese fino al sud. Ma nella notte tra il 25 e il 26 marzo, l'intervento dell'Arabia Saudita al fianco del governo yemenita rovescia le carte in tavola, sfociando in una pesante repressione degli Houthi. schierato con gli Houthi di dottrina sciita, l'Iran condanna l'intervento militare saudita e reclama la fine immediata degli attacchi in Yemen. Il conflitto prosegue per anni tra attacchi e cessate il fuoco, senza che una delle due parti riesca a prevalere sull'altra. I sincerely hope that we are living the beginning of the end of one of the biggest tragedies of the 21st century, the conflict in Yemen. The worst humanitarian situation that we face. Nel dicembre 2018 viene raggiunto l'accordo di Stoccolma che prevede il cessate il fuoco e il ritiro dei miliziani Houthi dal porto di Al-Udaida sotto la supervisione delle Nazioni Unite. Questa è una sintesi di ciò che è successo in Yemen negli ultimi anni. Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano a Eleonora Ardemagni, ricercatrice di ISPI, insegna anche all'Università Cattolica e ricercatrice analista anche per la NATO Defense College Foundation. Professoressa Ardemagni, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, proprio ieri, e ne danno notizia poche ore fa le agenzie, vi è stato un altro attacco. La zona a est dell'area di Al-Safra, governato di Al-Jawaf, parte nord-orientale del paese, pare che le forze dell'esercito regolare yemenita abbiano riconquistato nuovi siti. Si ha la sensazione, a scorrere le agenzie e le ultime notizie, che vi sia sostanzialmente uno stallo. Chi è che sta vincendo e perché? Sicuramente sta perdendo il governo riconosciuto dalla comunità internazionale e soprattutto sta perdendo l'Arabia Saudita, che lo appoggia e che dal 2015 porta avanti una costosissima campagna militare, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista delle perdite civili e di vite umane in Yemen. In questi cinque anni sostanzialmente i rapporti di forza sul campo tra gli insorti Houthi e il governo riconosciuto sono rimasti invariati e addirittura nelle ultime settimane, dopo che le Nazioni Unite erano riuscite a rinvigorire la mediazione appunto tra le parti, nelle ultime settimane gli insorti Houthi sono riusciti non soltanto a consolidare la presa di quei territori che controllano dal 2015, ma sono riusciti anche ad espandersi militarmente, come citava lei prima, in due zone che sono cruciali nel paese, che erano ancora sotto il controllo sin dal 2015 del governo, quindi Al-Jawf, per cui il nord-est yemenita, sì, e soprattutto Mareb. Mareb, che è la leggendaria, quella che era appunto la regione di Saba, secondo cui la leggenda appunto sarebbe qui originata la regione di Saba, proprio il territorio in cui il governo riconosciuto ha la sede dell'esercito, ha i maggiori campi di addestramento. Quindi questo significa che se davvero gli Houthi riescono a muoversi all'interno di questo territorio e ad occupare per esempio i giacimenti importanti, i giacimenti petroliferi che qui si trovano, questo sarebbe un'ulteriore svolta nel conflitto, ancora di più a favore degli insorti del nord. Sì. Un altro schiaffo per l'Arabia Saudita, che vedrebbe quindi gli Houthi, che sono alleati dell'Iran, prendere ancora più territorio. Certo. In Yemen. E questo, professoressa Ardemagni, porta a uno scenario evocato fra l'altro da un ascoltatore che allargava il discorso agli arabi del Golfo. Possono permettersi un Yemen in mano ai ribelli Houthi, collegati più o meno direttamente all'Iran, con tutto ciò che ne consegue? Stiamo pensando allo stretto di Hormuz, per esempio. Cioè, non è una vera batosta anche dal punto di vista economico, logistico, strategico? Certo, le monarchie del Golfo non si possono permettere, soprattutto l'Arabia Saudita, che gran parte dello Yemen, ma anche soltanto la parte nord, che proprio confina con l'Arabia Saudita, sia nelle mani di un movimento milizia che proprio dal 2015 si è avvicinato sempre di più a Teheran. Gli Houthi non sono, secondo me, non possono essere considerati degli attori per procura di Teheran, come nel caso degli Hezbollah libanesi, come nel caso delle milizie sciite irachene, ma certo dal 2015 in poi l'azione militare degli sauditi in Yemen ha spinto gli Houthi sempre più nelle braccia di Teheran. E sì, ovviamente la tensione regionale tra Arabia Saudita e Iran si ripercuote sempre in Yemen e attraverso la loro presenza militare nel paese, i sauditi cercano anche in questo momento di disegnare delle rotte alternative, per esempio anche petrolifere, allo stretto di Hormuz, che veniva appunto citato prima. Sì. Per esempio in questi mesi si è tornati a parlare di un progetto saudita per la costruzione di un oleodotto che trasporti direttamente il petrolio saudita nell'Oceano Indiano, quindi bypassando, oltrepassando Hormuz, attraverso proprio il territorio yemenita. Certo è che il petrolio, come diversamente da altre volte, non è la ragione di questo conflitto, però in queste ultime settimane i campi di battaglia che si stanno aprendo, come citavo prima, nel mare, sono proprio le aree più riccamente a densità appunto anche di risorse e petrolifere. Professoressa De Magni, prima abbiamo raccontato del caos libico, anche lì i giacimenti di petrolio sono sia obiettivo che formidabile leva, quasi fosse un'arma che possa essere agitata di fronte all'antagonista, all'interlocutore avversario. Siamo in chiusura, tra poco Carmelo Lauricella mi rimbrotterà con una sola parola, invece per lei, professoressa De Magni, c'è solo una parola, che è grazie, alla prossima e buon lavoro. La parola era, Carmelo? Che mi consente di ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è per domani, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.